Job 24. Oggi a Job 24 ci concentriamo sulla nostra voce e sull'importanza che ha anche a livello lavorativo. Saper comunicare con i collaboratori, sapersi esprimere al meglio con i clienti, essere in grado di relazionarci con i nostri superiori, lo sappiamo, è fondamentale. E c'è chi sostiene che saper usare e valorizzare la voce aiuta anche ad ottenere l'aumento di stipendio. È Ciro Imparato, attore e formatore, che in un libro spiega che la voce può cambiarci la vita, anche al lavoro. Gli ho chiesto come. Ci sono moltissimi modi attraverso cui la voce può aiutarci nel mondo del lavoro. Molto spesso, ad esempio, nelle aziende le parole magari vengono dette con una voce che non aiuta, perché più questa cosa, tipo l'aumento di stipendio o una gratificazione, è importante, più avrò paura di non ottenerla e più userò una voce che mi allontana dal risultato. Più le persone meritano questa gratificazione e più, avendone paura, non la ottengono. Gratificazioni che si possono ottenere quindi attraverso una rimodulazione della nostra voce. Però in molti pensano che la voce sia un dono di natura. Non è proprio esattamente così. Come dire, le cose possono cambiare, anche perché la voce è una questione di abitudine, è una questione muscolare. Come una persona non ha gli addominali e magari ha una postura non corretta e, andando in palestra per un certo periodo, ritorna al massimo della forma fisica, la stessa cosa può capitare con la voce, perché lavorando sulle nostre corde vocali, sull'abitudine a usare una voce con un bel timbro, questa può portarci ad avere un'autorevolezza decisamente maggiore, perché è difficile che una persona cambi voce se tu le dici sì, sì, simpatico. Ma se lavoriamo sugli elementi base della voce, che sono il tono, cioè quanto è acuta la voce, il volume, cioè quanto è forte, il tempo, cioè quanto è veloce, e il ritmo, cioè le pause, tutte queste cose insieme al sorriso, se sono modulate nella maniera corretta, fanno ottenere una voce che di volta in volta ispirerà una emozione differente. È vero, noi abbiamo delle difficoltà di comportamento e siamo insicuri, ma se noi riuscissimo ad usare una voce che riesce a generare negli altri un feedback positivo, ad esempio io vado a chiedere un aumento e metto l'altra persona in condizione, non dico di darmelo, però sicuramente di dire: beh, insomma, ti sei posto nei miei riguardi talmente bene che, se ne avrò la possibilità, il primo che gratificherò sei tu. Allora, se noi riusciamo a modificare la voce per generare negli altri un feedback positivo, loro ci ridaranno un feedback positivo a loro volta, che ci condizionerà positivamente e ci renderà sempre più forti, e quindi magari la terza volta l'aumento ce lo danno. Io non so se la voce abbia davvero tutto questo potere. Vero è che imparare ad usarla in maniera corretta ci può aiutare nel public speaking, per esempio quando dobbiamo parlare in pubblico, e in svariati altri momenti della vita lavorativa oltre che privata. Io ringrazio Ciro Imparato. Le sue tecniche sono contenute in un libro da poco edito da Sperling & Kupfer, che si intitola La tua voce può cambiarti la vita. Ed è tutto, a lunedì con Job 24. Un buon weekend da Roberta Pellegatta. I hope, I hope, I hope.